Hadith numero 6 da Abu Abdallah Nu'mani bin Bashir, che Allah si compiaccia di ambedue, disse: ho udito l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, dire: in verità ciò che è lecito è dichiarato in modo inequivocabile, e così pure è dichiarato in modo inequivocabile ciò che è illecito. Tra queste due categorie di azioni chiaramente qualificate vi sono azioni di difficile classificazione per la loro ambiguità, sulla natura delle quali la maggior parte della gente non è informata. Chi si tiene lontano dalle azioni di incerta natura non mette in pericolo la sua religione e il suo onore, mentre chi bazzica nell'ambiguità finisce col trovarsi nell'illecito, come il guardiano di un gregge che, quando lo fa pascolare sul confine di una zona con divieto di accesso, finisce sempre che il gregge sconfini. In verità, ogni re stabilisce dei divieti di accesso in certi luoghi, e in verità i divieti di accesso in certe situazioni della vita posti da Allah sono le sue proibizioni. Nel corpo c'è un organo dalla cui salute dipende lo stato di tutto il corpo. Quando quest'organo è sano, tutto il corpo è sano, e quando esso sta male, tutto il corpo sta male. Quest'organo è il cuore. L'hanno riferito al Bukhari e Muslim.